Eleonora. 25 maggio. Mi trovavo ad Acca, una giornata di cammino dal luogo dove stava la veggente. Ero andata in visita. Essa mi ha trovato anche qui di bel nuovo. Adesso diventa molto umana, ma orribile. Mi fa pensare alla testa di Medusa. 27 maggio. Me ne stavo seduta con mia N ed ecco che qualcuno mi afferra per le spalle e incomincia a scuotermi in qua e in là, tanto che si sono accorti anche gli altri e mi hanno domandato se avevo freddo. Quasi avevo freddo davvero, ma dalla paura. È una bruttissima donna, davvero ripugnante. 29 maggio. Mentre ero nel bosco mi vidi venire incontro una figura in volo. 2 giugno. Quella donna orribile fu qui assai a lungo. Non ci fu comunque nulla di nuovo. La figura volante venne proprio su di me e pareva avvolta in una nube luminosa. Mi sentii immersa in una sensazione del tutto particolare, nessuna angoscia, ma una felicità. Ma contemporaneamente vidi me stessa e tutto era cattivo in me visto in una nuova luce. Ero nel bosco, ma non vedevo più alberi. Ero come rinchiusa in un cerchio di nube bianca e soltanto anima e perciò non è cosa che possa descrivere. Ma che cosa è questa cosa, che mi circonda, e mi rende così felice? Capisco benissimo che la cosa non ha nulla a che vedere con gli spiriti. L'eccezionale mi ripugna tanto, ma ho paura di essere vanesia davvero. Avevo tanto desiderio della Santa Comunione, che lui si può avere solo di rado, e mentre ci stavo pensando, ecco che venne quella cosa. A chi posso aprire il mio cuore, se non a lei? Forse mi posso difendere da questa cosa, se lei trova che sia più giusto. Parlando però sinceramente, sarebbe per me un vero sacrificio, perché questa cosa dà troppa felicità. Ma che cosa è? Non potrebbe provenire da uno spirito malvagio, che in tal modo si potrebbe impossessare di me. Perché il buon Dio dovrebbe mandare a me questa dimostrazione di benevolenza, che egli dona soltanto ai buoni. Ed io non lo sono per niente, non possiedo ancora nemmeno una virtù, tutto solo propositi non realizzati. Questo mi inquieta parecchio. Bene. Ora lei sa di nuovo tutto, la carta è sempre un grande tranquillante. 11 giugno. La donna viene quasi tutte le notti, ma non si combina niente con lei. Solo pare che sia contenta della preghiera. 17 giugno. Finalmente balbetta qualche cosa, che è di passavia e si chiama Eleonora. 22 giugno. Essa mi ha quasi fatta andare fuori di me stessa prima della Santa Comunione. Mi ha talmente scrollato per il braccio, mentre stava in piedi come un gigante davanti a me, che credetti tutti avrebbero dovuto vedere. Che essa possa leggere anche il mio pensiero? Perché appena mi venne l'idea di offrire per lei la Santa Comunione, essa disparve. Durante la notte essa poggiò il capo sulla mia mano, io sentivo i suoi occhi fissi su di me. Presi dell'acqua santa e gliela versai addosso. Lei, tu sei misericordiosa. Io, era così difficile poterti aiutare, che sei venuta per così lungo tempo? Lei, se tu sapessi come ho peccato. Io non lo voglio sapere affatto. Solo che io ti posso aiutare. Lei, scrivi a passavia che. Impossibile capire. Mi riempì di tristezza, ma fu solo un mormorio. Spero di poterle far dire tutto. 24 giugno. Dimmi subito che cosa devo scrivere a passavia. Lei, il bambino ucciso era mio. Io, a chi lo devo scrivere? Lei, Grammi. Io, quando hai ucciso il bambino. Lei, estate 1823. Io, Magrammi. Non sarà più viva. Lei, io la ho calunniata. Io, bene, vedrò che cosa potrò fare, ma forse è già più facile per te, ora che lo hai detto. Lei, infelice. Infelice. E disparve. Due giorni di completo riposo. E un riposo meraviglioso. 27 giugno. Apparve qualche cosa di nuovo con molto fracasso e lamenti, era irriconoscibile. Era grande come un armadio. Venne anche Eleonora e mi diede un bacio, cosa che non mi va affatto. Poi ho pregato a lungo con lei ed essa sembra contenta. Io, posso fare ancora qualche cosa per te? Lei, non cacciarmi via da te. Io, ma io non lo faccio. Lei, tu mi eviti se cerco di toccarti. Io, sì, la cosa mi fa rabbrividire e a te non giova. Lei, lasciami. Poi si accomodò accanto a me. Può anche darsi che la cosa le dia sollievo e la aiuti, se io riesco a sopportarla come un atto di offerta per lei. 29 giugno. Quell'altro tormento fu di nuovo qui. Sembra uno che porta un peso molto grave. Poi ritornò Eleonora. Io, vieni, dammi la tua mano. Allora lei mi venne incontro sorridendo. Io, sei contenta così, che sorridi. Lei, è superato. Io, che cosa? Lei, lo sconforto. Io, perché? Lei, perché tu dei? Io, proprio oggi che ti ho dato tanto poco. Ebbi tanto poco tempo, per pensare a te. Lei, la tua volontà era offerta. Io, poiché tu sai tutto di me, dimmi che cosa è in me ancora che non ti piace. Lei, tu esiti ancora nel dare, non devi più preoccuparti di te stessa. Ed ecco entrare il nuovo e lei disparve. Certo se fossi così avanti, come vogliono gli spiriti. Ma ce ne manca ancora. 30 giugno. Lei mi venne incontro sulle scale, mi sorrise e con la mano fece un cenno lontano. Forse questa era la conclusione. 4 luglio. Eleonora spesso da me. Essa non parla più ed ha una espressione di felicità. L'uomo che porta il peso è molto tormentante per via della sua inquietudine. Si può distinguere la sua faccia, ha una lunga barba grigia. Non lo conosco. 7 luglio. Durante il giorno ci fu un grande rumore nella mia stanza. Il mio cassettone e la porta saltavano per aria, non si poteva vedere niente. La cosa si ripeté 4 volte. 9 luglio. La realtà ha completato il sogno. Io sognai. Un uomo carico di un grande peso veniva verso di me, poggiava il suo carico accanto al mio letto. Io mi svegliai. E l'uomo era veramente lì davanti a me, dalla sua schiena piegata a qualcosa, cosa che non potei conoscere, una cosa scura sul pavimento. La cosa mi impressionò talmente, che mi alzai per convincermi, che ero sveglia. Scrivo questo perché non mi era mai successo. Pare che Eleonora non venga più. Sento di nuovo un nuovo frastuono e un chiamare, ma non il mio nome, ma, ascoltaci. Aiutaci. E poi un grido che ti trapassa l'anima. 11 luglio. Io mi sono esaminata a fondo, se la cosa che scrivo, corrisponde alla verità, e posso affermare, ebbene, sì. Io ho l'abitudine di rileggere e rileggere sempre ciò che ho scritto, prima di consegnarlo e talvolta ho trovato di aver omesso ciò che mi sembrava esagerato. Forse la mia sensazione per l'altro è troppo compenetrante. Nota. Il tenore del diario talvolta lo ripeto a questo posto. Qui si tratta di apparizioni e visioni, non hanno niente a che fare con le povere anime. La veggente, rilevando queste visioni, ha anche collegato una sua caratteristica, che era riservata solo a colui al quale erano indirizzate, e che è molto simile a una confessione scritta per lettera. Essa scrive in proposito: ora mi devo preparare alla morte e finalmente fare sul serio. Parroco, Sebastiano Uieser.